8:56 in uno straordinario ritardo. Ritardo clamoroso anche per noi. Cioè. In scivolata. È Pasqua, dai, è Pasqua. E infatti, oh, aprile dolce dormire. Scherzo, anzi, è primo d'aprile. Personi. Pensavate che non c'eravamo, invece sì. Scoprivatelo e con la bocca ancora impastata di tutto. Di tutto, nel mio caso mi sono ingozzata di colomba e l'aspetto tutto l'anno. E quindi niente, siamo un po' in ritardo, però non ce ne vogliate. Ce ne faremo perdonare perché abbiamo la fuga del gatto oggi. Ovviamente Radio Wombat, se per caso avete scivolato anche voi sul computer e non vi state rendendo conto di dove siete, siete su Radio Wombat, state ascoltando l'inizio in ritardo appunto della fuga del gatto in versione pasquale. E noi, siccome siamo delle personcine tradizionaliste, oggi vi faccio... Non è vero. No, solo oggi ci ho presa così, in realtà. Sì, ci ho presa così perché abbiamo detto, ma perché andare di fantasia quando poi abbiamo delle cose meravigliose? Quando la tradizione ci aiuta. Ci aiuta, cioè, no? Comunque non è che uno può sempre sputare in faccia a tutto nella vita. Infatti, cioè, una volta nella vita. È troppo da poser. Allora noi, siccome non siamo... dei poser o dei poser alla francese, come vogliate dirlo. Sì. Ci siamo accollati, insomma, un tema, ecco, un po' importante. Traditional, oggi, come i tatuaggi. E quindi vi faremo ascoltare per intero lo Stabat Mater nella versione, però, attenzione, di Bach, di Johann Sebastian Bach. Parodia, si dice così, anche se dimenticate l'uso che se ne fa oggi, non è una parodia in senso non c'è niente da dire. C'era Bach lì. Speravate. Che faceva la la la. E invece no. No, no. E comunque, insomma, sì, una parodia dallo Stabat Mater, il celebre Stabat Mater di Pergolesi. In questo caso noi invece abbiamo scelto la versione di Johann Sebastian Bach, che lo sentirete e insomma ne parleremo un pochino, lo introdurremo, ha delle differenze sostanziali. E allora, però, dobbiamo introdurre un po' la questione, perché lo Stabat Mater si potrebbe quasi dire, si dovrebbe fare quasi un parallelo con il jazz, parlando di standard, cioè potremmo dire che è uno standard della musica classica, almeno di un certo periodo, anche se poi insomma un certo periodo no, un po' ovunque, da un momento in poi si è abbastanza imposto. È una melodia gregoriana, cioè originariamente una melodia gregoriana, lo vedrete, poi l'ascolterete, è strutturata in una sequenza come spesso accadeva per il gregoriano e fu abrogata dal Concilio di Trento perché loro si dovevano occupare un po' di tutto ogni tanto. E quindi la abrogarono e chiaramente come dice Guzzati, ma mica per cattiveria, che no. Non c'avevano capito un cazzo, cioè era un po' così, esatto. Non è per cattiveria. Anche perché voi dovete pensare che chiaramente le melodie gregoriane non è che erano musichette, erano liturgie, facevano parte in tutto e per tutto della liturgia sacra, quindi insomma era la Chiesa che decideva cosa si poteva cantare o no, non è che ora uno si alza e fa quello che gli pare. Fa quello che gli pare, già mai. Nella vita. Quindi il Concilio di Trento abroga lo Stabat Mater e poi però in realtà questo rientra perché fu reintrodotto successivamente nel 1727, un bel po' di tempo dopo, da Papa Benedetto XIII. Che insomma si sentiva in vena. No, ha detto via. La reintrodusse e poi in realtà di sottobanco anche durante il periodo dell'abrogazione in realtà il testo dello Stabat Mater in realtà continuò a essere abbastanza usato insomma non è che si cancellano così di punto in bianco delle evidenti tradizioni che si portavano avanti da secoli. Quindi ci sono delle infinite versioni di questo standard, appunto, potremmo chiamarlo così, e uno dei primi di cui si ha memoria è sicuramente uno dei più importanti è quella di Alessandro Scarlatti, il padre della nostra sigla. E proprio a partire dalla versione di Scarlatti poi nasce quella di Pergolesi, di cui parleremo tra poco. Altri che hanno deciso di porre in musica lo Stabat Mater e quindi di farne una loro versione sono stati tra i tanti Paisiello, ma andando proprio in ordine completamente sparso nel tempo, Dvorak, il nostro amato Salieri, Antonio Salieri, il nostro underdog, esatto, Antonio Vivaldi, Arvo Part. Poi chi c'era? Chi c'era? Poulenc più recentemente, Haydn, Liszt, oppure Schubert, Donizetti, Rossini anche, cioè proprio di palo in frasca. Sì, sì. E tutti. Anche Giovanni Pierluigi da Palestrina, ovviamente, Verdi, perché figurati no, se non ci infilava. Non a mancare. Boccherini, insomma, veramente un milione di compositori si sono cimentati con questo, e la maggior parte di loro poi ha preso il là, lo vedremo, dallo Stabat Mater di Pergolesi, che effettivamente è incredibilmente bello, nonostante poi lo vedremo, cercava di essere semplice, sì, e nella sua semplicità apparente, comunque sia, era di un impatto incredibile, e quindi influenzò moltissimi. E questa cosa fu un po' un mostro sacro, nel senso che molti compositori amavano a tal punto questa versione di Pergolesi da averne quasi un timore reverenziale a farne una loro versione. D'altra parte erano anche tentati, quindi c'era una sorta di prova, mi cimento o non mi cimento. Alla fine tantissimi si sono cimentati po' come il Requiem, no? Ci sono delle forme, ora Requiem è un pochino più, però in generale, no? Ci sono queste forme con cui i musicisti appunto a cui i musicisti si approcciano, e che magari ovviamente realizzano in maniera diversa a seconda delle epoche, a seconda delle, ora Stabat Mater forse c'ha dei canoni forse ancora più rigidi, formali del Requiem, però insomma anche il Requiem, no, c'ha quei passaggi che, quindi è un po' per darvi un'idea, ecco. Eh sì, sì, è una messa al Requiem. Questo ci parlavamo della tradizione, proprio perché ovviamente lo Stabat Mater di fatto narra della Pasqua. Esatto. E quindi insomma siamo proprio sul pezzo. Noi sempre sul pezzo. Sul pezzo, infatti siamo circondati da uova di Pasqua, anche se voi non lo sapete, ma è vero, ci sono pochissimo. Vintage. Vintage, sempre vintage. Sì. Quindi, invece, arrivando al clou, arriviamo ai due Stabat Mater di cui parliamo oggi. Poi ve ne sentirete uno solo, perché da solo dura 42 minuti, quindi non potevamo farveli ascoltare tutti e due. E quindi partiamo da quello che è stato un po' la madre, ovvero Giovanni Battista Pergolesi. Giovanni Battista Pergolesi, al secolo Giovanni Battista Draghi. Che bello, lui era così, che era meglio Draghi o Drago, che nacque in realtà a provincia di Ancona nel 1710 ed è stato uno dei più famosi, celebrati, celeberrimi musicisti, compositori, organista e violinista di opere e di musica sacra, appunto come il lavoro di cui stiamo parlando, d'epoca barocca. È forse un po', ecco, il musicista, no, uno dei più noti, più rappresentativi del barocco italiano, forse. Creatore veramente di opere pazzesche, concerto per flauto orchestra, concerti per violino, in generale, ecco, uno dei più, anche se si vuole, famosi anche ai non, insomma, anche non addetti ai lavori, ecco, sì, diciamo. Beh, sì, dai. Purtroppo morto giovanissimo, quindi mi sembra, prima si diceva 26 anni, quindi 26, insomma, anni veramente. In realtà, di Tisi, fra l'altro, che io dopo st'inverno, cioè, esatto, lasciamo perdere, qui siamo, io sostenendo di averla da giorni, chiaramente. E, per cui sì, ecco, Pergolesi, come dicevamo, nella prima metà del Settecento era sicuramente, insieme a Scarlatti, Nicola Porpora e insomma altri noti, era però uno dei, insomma, dei nomi più interessanti, insomma più acclamati, già in vita, ecco, ebbe fama già in vita. Un po' appunto grazie alle sue capacità anche proprio tecniche di violinista, di organista, e per la sua capacità di scrittura, che, come diceva la Mari, appunto all'ascolto ha il dono di apparire molto semplice, ma in realtà chiaramente si basa su strutture molto complesse, molto, molto raffinate, molto belle. È molto difficile in tutte le arti, in particolare nella musica, far sembrare una cosa semplice, ovviamente, e, insomma, questo è chiaro. E ci vuole una grande maestria, soprattutto in un periodo come il barocco, dove la tendenza era ad arricchire, ad abbellire, no? A far diventare sempre più, insomma, più ricche le opere. E quindi Pergolesi, appunto, ora senza stare a fare tutta la sua biografia. Insomma, la biografia, la vita, però insomma fu organista alla Cappella Reale di Napoli e insomma ebbe diciamo una carriera piuttosto lunga nonostante la giovane età. E chiaramente tra le sue opere, forse quelle che sono arrivate più a noi, Il prigioniere superbo, La serva padrona, di cui tra l'altro vorrei dire ho fatto le scenografie una volta, ecco. Non so, per tirarmela, però potremmo parlarne una volta, fare una puntata. Molto bellina, era quella versione per Immagine Musicale. E La serva padrona, appunto, queste sono quelle che sono. La serva padrona in particolare è molto, molto. È stata molto sempre portata in scena, è una delle opere più rappresentate, che mischia un po' i tratti della commedia dell'arte a quelli dell'opera barocca, dell'opera buffa. Quindi, insomma, è un po', diciamo, lui fa un po' da evoluzione tra il Pergolesi crea un po' un ponte, no? tra il linguaggio musicale barocco classico e quella che poi sarà l'opera come noi un po' la intendiamo, l'opera italiana un po' classica tra virgolette, che c'è ancora nel suo caso. La serva padrona è proprio famosa proprio perché rappresenta un po' questo passaggio, c'ha questi personaggi tratti dalla commedia dell'arte, però poi è già, insomma, getta già un ponte verso la lirica, quella che noi consideriamo appunto classica, no? Italiana. E quindi questo. Allora, e questo era più o meno Pergolesi, fino ad arrivare allo Stabat Mater, che Pergolesi si dice, poi anche lì vediamo, però si dice che compose in punto di morte. Sì, infatti. C'è chi dice che addirittura proprio lo finì di comporre proprio esattamente il giorno in cui morì. Ora lì veramente va sul Mozart. Questo è un po' la Mozart, esatto, era leggende. Però Mozart style, diciamo che non stava bene, questo no, si sapeva. Ragazzo, comunque lui appunto in tutta la sua carriera, per quanto breve però insomma di fulminante, parallelamente all'attività operistica, Pergolesi fu appunto autore di musica sacra anche, ma appunto è solo negli ultimi mesi di vita che compone quelli che sono considerati un po' il suo lascito più importante in questo ambito. E uno di questi è appunto il Sabbath Mater e anche il coevo Salve Regina, che è del 1736, quindi siamo lì. Sabbath Mater per orchestra d'archi, soprano e contralto, che appunto la leggenda, come diceva Gianna Mari, vuole che lui completasse il giorno stesso della sua morte. Questa povera leggenda del mondo musicale. Se questo aneddoto appunto sia vero o no, o un ulteriore ricamo insomma fornito attorno alla figura, insomma, ci importa poco. Poi alla fine è invece certo, come si rileva dallo studio appunto del carteggio autografo, che fu composto con una grande fretta nello scrivere, quindi molto velocemente, confermata tra l'altro dai numerosi, questo lo sono riusciti a vederlo, dai numerosi errori che lui no, che scrivendo velocemente ci sono delle parti di viole mancanti o parti di altri strumenti solo abbozzati. In generale, insomma, un disordine nella scrittura tipico di chi scrive molto, molto veloce, chiaramente. Che sente e ha poco il tempo. Sente il tempo. Tanto che in calcio all'ultima pagina dello spartito scrisse di suo pugno Finis Laus Deo, cioè quasi a mostrare appunto, leggevo, il sollievo per aver avuto comunque il tempo necessario di chiudere l'opera, sorte che non toccò invece all'amato, io ce lo metto sempre, però che uno è fan, che non toccò all'amato Amadeus, invece non lo finì. Sì, e direi che effettivamente si sente, poi ora lo potrete sentire, perché poi in realtà la versione di Bach riprende le linee melodiche fondamentali dello Stabat Mater, quindi ce le potrete ritrovare. E sicuramente è una musica che non è stata scritta in un momento casuale, cioè si sente che è scritta da una persona che non è che proprio era così allegrotta o no, stava benissimo, c'ha un certo tipo di intensità. E cosa devo fare? Dire. Scrivo lo Stabat Mater, sì, potrei provare. Eh beh. E quindi invece poi da lì si parte, cioè, praticamente 10 anni dopo, quindi non tanto più tardi, una decina di anni dopo, perché non si capisce bene, ma il manoscritto più o meno viene datato tra il 1744 e il 1748, quindi diciamo tra i 10 e i 15 anni dopo, Bach riprende lo Stabat Mater per farne una sua versione. Pare che Johann Sebastian Bach avesse il manuscritto di, cioè la, scusate, il manuscritto, no, non credo, una copia della partitura originale dello Stabat Mater di Pergolesi da tempo nella sua biblioteca e che lo amasse particolarmente e quindi decise di farne una sua versione, una sua parodia. Una parafrasi, infatti, qui appunto sì. Leggevo che la definiscono una parafrasi, perché appunto modificò chiaramente l'orchestrazione, per esempio della viola, e ci aggiunse l'uso di un coro in più. Nella sua versione, io ovviamente il tedesco non lo so, quindi ci provo, però Tilge Hoster Reinen Sunden, che usa, quindi si basa su una versione tedesca del Salmo 51. Sì, cosa succede? Non è niente casuale, poi con Bach assolutamente. Cosa succede? Che lo Stabat Mater era, come abbiamo visto, una parte della liturgia molto importante della Chiesa, dibattuta e comunque, diciamo, in mezzo al dibattito, appunto. Il dibattito era aperto. Beh, sì, comunque. Era un qualcosa di molto importante. Era ovviamente scritta in latino, derivava dal gregoriano, come dicevamo all'inizio. E non a caso Bach, nel rifare la sua versione dello Stabat Mater, oltre a rimaneggiare la partitura e quindi la parte musicale e strumentale, rimaneggia anche il testo, e anzi, prima di tutto rimaneggia il testo. Pare che il testo gli arrivò da un suo collaboratore di cui non sappiamo niente, sostanzialmente ci è ignoto chi l'abbia scritto, che ne fa una versione cioè riadatta, fondamentalmente, invece di riutilizzare lo stesso testo in latino, prende un salmo, il Salmo 51, che è un miserere tra l'altro, nella versione in tedesco, nella versione di Lutero. Vabbè, chiaro, ovviamente. Quindi l'operazione è abbastanza evidente da un punto di vista culturale. Quindi quello che si fa è sostituire in veste riformista, evidentemente, quello che era un pezzo fondamentale della dottrina liturgica fino a quel momento, e riadattarlo in veste riformista. Quindi la cosa poi, oltre a Bach che ci mette la sua musica e che dobbiamo dire, cioè è ovvio che è una cosa incredibile, ma anche il testo, che non è particolarmente interessante da un punto di vista così di testo, non è che sia sta gran poesia, però è molto interessante perché ad esempio riesce a riadattare, a far coincidere con il latino le stesse vocali in alcuni passaggi, perlomeno anche con il tedesco, cioè quindi tedesco e latino in certi passaggi hanno le stesse vocali, quindi chiaramente da un punto di vista fonetico e musicale, il che non è proprio banale, cioè riesce a ottenere un effetto interessante e anche stupefacente a un ascoltatore che era abituato allo Stabat Mater canonico di Pergolesi con tutto quello che culturalmente ne derivava. Quindi succede questo, e dal punto di vista invece musicale, anche qui non ci sono, le scelte non sono fatte a caso. Ad esempio, nella linea strumentale, come diceva prima anche la Virgi, viene dato un ruolo più fondamentale alla viola, e lo sentirete, è brutalmente diverso. Ma anche tutti gli strumenti hanno un ruolo indipendente in qualche maniera, come poi era d'uso fare Bach. Mentre invece nello Stabat Mater originario di Pergolesi fondamentalmente erano le voci al centro del tutto, perché la parola era al centro del tutto e gli strumenti avevano il compito più che altro di andare a sostenere queste voci. Accompagnare, sostenere. Esatto. Invece Bach dà un impulso maggiore, più importante a ciascuno strumento, e attenzione sulle voci, anche qui scelta non casuale. Mentre si diceva prima, Pergolesi affida il ruolo a un contralto e un soprano, quindi due voci femminili, con tutta la sensualità che se ne deriva, perché che questa fosse musica sacra, claro, sappiamo perfettamente quanto il barocco poi aggiungeva, caricava di sensualità anche, e Bach toglie le voci di contralto e soprano e aggiunge invece, cioè le sostituisce con un coro di voci bianche. Quelli luterani sono seri poi, cioè, proprio manca a divertirsi. E quindi sì, assessuati con un effetto straniante, obiettivamente, lo sentirete, e quindi anche qui sì, ne viene fuori un capolavoro, è un capolavoro però anche con un senso culturale piuttosto importante, ecco. Quindi, vabbè, sì, poi... Dai. Quindi, ecco, quest'opera, fino a questo momento, poi, perché avrà, come vi dicevano Mari, molti altri passaggi, magari poi si farà anche altre puntate di autori che si sono approcciati a questo lavoro, perché è interessante. E, quindi, come vi diceva anche la Mari, piccolo inciso, nasceva già prima, appunto, di Pergolesi con Scarlatti, e anche quello di Scarlatti, perché è da notare che l'opera di Pergolesi fu commissionata per sostituire lo Stabat Mater di Scarlatti. Ah, nel frattempo era diventato, tra virgolette, vecchio, cioè era un po', che era sempre stato eseguito nel periodo quaresimale, ed era una composizione molto celebre di Scarlatti, che era datata 1724, quindi non molto prima, e come fosse sostituita in così poco tempo, perché in soli 10 anni, in fondo, no, non era stufati. È perché era indicativo della rapida evoluzione che la musica aveva, soprattutto nella Napoli settecentesca, no? Che era in quel momento molto fervida culturalmente, come la musica, il gusto musicale si fosse evoluto molto velocemente, e quindi composizioni di pochi anni più antiche già dopo 10 anni erano considerate arcaiche, insomma, in uno stile un po' vecchio rispetto allo stile proposto dai musicisti della nuova generazione come Pergolesi. Quindi quella di Pergolesi va a sostituire quella di Scarlatti molto velocemente, e in realtà poi anche quella di Bach non arriva troppo dopo, quindi siamo in un momento della musica, no, veramente molto, molto veloce per i tempi, molto così fervido, ecco. Eh sì, se in si cui fosse... le cose invecchiavano molto velocemente. Se si fosse continuato adesso faremmo la versione trap. Esatto, chiaro, infatti, quello è immagino. Il problema, però. Che bello. Lo so, e ogni tempo c'ha le sue disgrazie. E quindi questo, sì. Allora, io direi il riassunto poi in come si dice, proprio materialmente di quello che vi abbiamo detto, per andarvi poi a ricercare i parametri tecnici, sono Johann Sebastian Bach, ovviamente, il Salmo 51, il testo che viene adattato, e l'opera è BWV, ho dei problemi a articolare questa 1083? Cosa. 1083, esattamente. Questo è il numero di catalogo delle opere di Bach, e che poi, insomma, è quella che vi occorre per andare a ricercarvela. Su Bach non riaprirei la parentesi, se no non ne usciamo più. No. Sapevatelo, perché abbiamo fatto un milione di puntate in cui, bene o male, Bach un po' c'entra sempre, ci mette sempre lo zampino, è un altro tipo Mozart. Poi esatto. Magari rifaremo un altro, però insomma, non facciamo i furbi, perché qui su Bach abbiamo fatto diverse puntate, quindi lo sappiatelo. Esatto, l'organico è pensato per soprano contralto, attenzione, ovviamente qui si parla di voci bianche, due violini, viola e basso continuo. La composizione, l'abbiamo detto, è circa del 1730, no scusate, 40-47, insomma c'ha un po' di dubbi, e si tratta di un mottetto per due voci e orchestra, e anche conosciuta appunto come parodia dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Io direi, non lo so, a questo punto di andare a sentire. E dopo si fa un saluto, la vuoi mandare? Io la manderei. La manderesti? Ma sì. Saluteresti? No, sono sì, 42 sì. No, io ho l'ansia di stacco, sai, così voglio sapere se devo salutare voi da tutti. Ma loro tornano. Loro sono tornate, va bene. Sì, domenica prossima tornano. Ma io no, perché come lei sa... la pimpa va in vacanza. La pimpa va in vacanza, ci lascia bocca asciutta per un paio di settimane, ma io sì, ci sarò. Non sentirete la mia mancanza, lo so, però tornerò con un sacco di perle dal nuovo mondo. Noi vogliamo assolutamente il reportage della pimpa va in vacanza 2. Certo. E quindi ci faremo con diapositive spiegate alla radio. Così, sì, chiaramente, gioia. Come sempre, il Radio Wombat non paga e quindi... no, infatti anche qui parliamone, poi facciamo... L'autofinanziamento, esatto, è un mondo di poracci e esatto. Quindi la Pimpa va in vacanza con soldi suoi e con 2 lire e quindi... Esatto, e quel che può fare, vediamo. Penso farà delle recensioni, non lo so, di quelli che suonano per strada, esatto, nella metropolitana. Sì, brava, oppure... No, come dicevo prima, spoiler, andrò anche all'opera in un teatro molto famoso, ma solo perché mi hanno regalato i biglietti, ecco. Mi sono collata così agli amici e mi sono con una poveraccia, mi sono fatta offrire i biglietti, però vi racconterò insomma poi così hash hash, per ora è tutto segreto e quando torno scoprirete in quale magnifico teatro andrò e da lì e vi cuccherete l'accollo del reportage. Ma ecco, sì, ma noi ce lo accogliamo tutto. Anche perché le altre radio appunto hanno gli accrediti, noi no. Ma abbiamo gli amici così, infatti noi non ci servono, ci aiutano, non ci servono, grazie agli amici tra l'altro in anticipo, sì. E grazie perché sono una poraccia, se volete bene mi comprate i biglietti dell'opera, grazie. Bene, benissimo, bene. Tra l'altro avremmo anche potuto giusto per la Pimpa va in vacanza parlare anche del io invece Pimpa va in vacanza poco lontano. Vabbè. Ma sono stata a vedere Cardinali che Cardinali, oddio, senti che lapsus, no. Sardelli. Però ci hai provato. Vernacoliere. Siamo lì. Vabbè. Mi ha indotto. Bene, c'è un sdoppiamento. Mi ha indotto un grosso lapsus. No, non Cardinale che improvvisamente dirigeva l'orchestra, no, Sardelli, Federico e Maria Sardelli che dirigeva. In realtà, c'è un nesso perché dirigeva al Duomo di Firenze anche proprio lo Stabat Mater di Bach che ci stiamo per ascoltare oggi. Va bene, è da lì che ho preso l'idea. Diciamolo, va bene, dai. Allora, data lì, lo voleva dire, va bene. Era bellissimo ed era gratis. Quindi. Dentro Santa Maria del Fiore, quindi insomma, numeri, sì. Posticioni. Sì. Come si dice. Va bene, vi abbiamo tediato abbastanza. Sì, con i cavoli nostri. Quindi e salutiamo. Salutiamo e la Mari più ravvicinatamente. Io quando torno, alla prossima. Ciao ciao. State bene, ciao. No. Thank you. Oh. Thank you.